Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana e nuovo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Anche oggi ritroviamo Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Un saluto a te Francesco e ai radioascoltatori. Gianluca, oggi parliamo di una legge particolare che ha un nome bruttissimo, la legge salva suicidi. Ce ne vuoi parlare? Sì, ne parliamo per un motivo ben preciso, Francesco. Allora, in questi giorni ovviamente noi abbiamo molte persone che si rivolgono all'Adico per richiedere, soprattutto in particolare, come accedere alla rottamazione delle proprie cartelle di Equitalia, e soprattutto ci chiedono se alcune cartelle non siano prescritte. Nel caso di prescrizione ovviamente si torna ad Equitalia e si fa la richiesta appunto di cancellazione di quel tipo di debito, perché è prescritto tramite sempre un modulo. E diciamo che proprio forse di fronte a queste situazioni di questi tempi abbiamo avuto modo di raffrontarci con molte persone sovraindebitate. L'altra volta abbiamo parlato chiaramente del pericolo del sovraindebitamento e dei prestiti per, ad esempio, andare a onorare altri prestiti. Ecco, diciamo che in realtà tante persone si trovano in situazione di sovraindebitamento per vari motivi, molto spesso anche perché dopo aver fatto degli investimenti, che ne so, sulla ristrutturazione della casa, l'acquisto dell'auto, magari sono ritrovati senza lavoro, quindi situazioni molto difficili. Di recente abbiamo avuto proprio in questo 2017 molte richieste per quanto concerne una legge che è la numero 3 del 27 gennaio 2012, quindi sto parlando di una legge di alcuni anni fa, definita appunto legge salva suicidi o legge cancella debito. Credo che entrambi i nomi non siano molto adeguati per descriverla, però insomma diciamo che giornalisticamente ha avuto questa definizione. Sì. In termini molto semplici, ecco, noi adesso in questo momento ci riferiamo soprattutto al consumatore privato. Questa legge fa sì che in caso appunto di difficoltà economiche e di debiti, il soggetto possa, previo alla presentazione di un piano ben chiaro sui propri debiti, sulla propria struttura debitoria, può, dicevo, presentare al tribunale una richiesta o di rateizzazione o di saldo a stralcio, ovvero di, diciamo così, uno sconto sul credito. Ecco, la differenza rispetto a quando si cerca ovviamente una mediazione tra le parti, noi lo facciamo spesso con le richieste di rateizzazione o quello che è richiesta di saldo a stralcio, però nel momento in cui ricevi il diniego sull'altro dalla controparte, ecco che può tornare utile, molto utile, questa legge salva suicidi o cancella debito, nomi antipaticissimi, usiamoli ancora, perché in quel caso è il tribunale che decide, e quello che decide il tribunale è appunto legge, per cui una volta che il tribunale abbia accettato la richiesta nostra del debitore di una rateizzazione particolare o di un saldo a stralcio del debito, non c'è più niente da fare, viene accordato e quindi il creditore non può far altro che accettare questa situazione. In questa situazione vediamo che c'è la possibilità di affidare, come abbiamo detto già, a un tribunale questa decisione importante, e dobbiamo dire, Francesco, che in pochi conoscono questa formula. Chi l'ha utilizzata, abbiamo potuto verificare, ha ottenuto anche dei buoni vantaggi, dei buoni risultati. Per esempio abbiamo la situazione di una signora anziana ancora nel 2015 che ha fatto appunto la richiesta di un saldo a stralcio del proprio debito, e gliel'hanno ridotto dell'80% in considerazione di varie cose, non ultima l'età, quindi quanto questa persona avrebbe potuto pagare ancora secondo le proprie aspettative di vita. Quindi vediamo che è una formula molto particolare, anche un po' complessa per certi aspetti, perché il debitore dovrà compilare tutta la documentazione necessaria, nella quale spiegherà al giudice anche come si sono creati questi debiti, anche per capire insomma se non ci sono state anche delle pecche da parte del debitore, e quanti sono ovviamente questi soldi, quali sono le possibilità di spalmare questo debito nel tempo, oppure si può anche tradurre in una richiesta appunto di uno sconto anche ampio sul credito. A quel punto il giudice andrà ad analizzare tutta la situazione e deciderà, e con una sentenza deciderà circa la vicenda. Ovviamente teoricamente il soggetto, il creditore, il debitore non ha obblighi di farsi affiancare da qualcuno alla redazione di tutta la documentazione, però è consigliabile che comunque un avvocato, magari anche un commercialista, sicuramente ecco, un'associazione dei consumatori, lo seguano nella redazione della documentazione, perché è molto importante poi per il giudizio finale da parte del tribunale. Volevo anche aggiungere una cosa: non è una legge cancella debito come è stata definita, perché non è, appunto, come abbiamo detto già chiaramente adesso, non si va a cancellare il debito, si va semplicemente a rateizzarlo, a spalmarlo, oppure lo si va a diminuire. Però è una legge molto importante, perché ecco, mette un giudice, quindi un tribunale, a valutare una situazione in modo neutro e a capire fin dove possa arrivare ad onorare il proprio impegno il debitore nei confronti del creditore. Ecco, e dà una possibilità in un momento che magari uno vede solo nero, no? Perché qualcuno dice vabbè, mi tolgo la vita, così tolgo anche il debito. Invece qua si apre una bella possibilità, quindi è una cosa che andava segnalata. Io ringrazio come sempre l'Associazione Difesa Consumatori, che ha il sito associazionedifesaconsumatori.it, nella figura di Gianluca Codognato, e con te Gianluca ci ritroviamo tra qualche giorno. Grazie Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.